Il caffè della domenica di Maria Latella. In collaborazione con Lavazza. Eccoci, benvenuti al caffè della domenica. Questa domenica il caffè lo prendiamo con Gianmario Verona, economista, accademico italiano, rettore dell'Università Bocconi. Buona domenica e buon caffè. L'ha già preso? Buona domenica, l'ho già preso, ne ho già presi due addirittura. Vabbè, anche io ne prendo due, ne prendo anche di più perché al mattino poi la domenica ci metto un po'. Qualche giorno fa, parlando con il ministro della ricerca e dell'università Manfredi, è uscita fuori una notizia che era già stata comunicata, ma che comunque fa piacere ascoltare. Sono aumentate quest'anno le iscrizioni all'università. Secondo lei è l'effetto della diminuzione delle tasse universitarie per gli atenei pubblici oppure la pandemia ha fatto rivalutare l'importanza di una solida formazione in tutti i campi? Che ne pensa? Io credo ci siano due effetti. Da economista non posso ovviamente non considerare gli incentivi, quindi sicuramente l'incentivo è stato molto importante e questo ha avuto un effetto, quindi la riduzione di tasso, addirittura l'esenzione per alcune fasce. L'altro aspetto è che abbiamo notato noi anche durante la crisi del 2008, che l'investimento in università è comunque fondamentalmente anticiclico. L'università ha un percorso di 3-5 anni e di conseguenza la crisi di un anno, 6 mesi, anche un anno e mezzo come si sta verificando ora, teoricamente non dovrebbe impattare più di tanto. Senta, rettore, sempre guardando agli effetti positivi, perché ce ne sono, no? Anche nelle crisi, e questa sicuramente è una grande crisi. D'altra parte, crisi deriva dal greco crino, che induce a separare, no? Separare quello che è buono e quello che è cattivo. Guardiamo a quello di buono che ci sta lasciando questo anno difficile. Ecco, una delle novità nel campo della formazione è che sia per le scuole superiori che per l'università la crisi ha rimesso al centro la didattica. Prima, non dico per la Bocconi, ma sicuramente per le università pubbliche, il docente veniva valutato soprattutto per la sua produzione scientifica. Oggi si è capito, e se ne parla ormai diffusamente, di quanto invece sia importante valutare un docente per la capacità che ha di trasferire il suo sapere agli studenti. E mi lasci dire, ormai siamo in campo digitale, anche per la sua empatia e anche empatia digitale. Mi sbaglio? Ed è così anche per voi in Bocconi? Ma guardi, in generale la pandemia, come ha ben detto, ha sicuramente enfatizzato ulteriormente il momento di interazione con gli studenti, che è stato stravolto, e quindi devo dire che lo sforzo dei docenti, penso di poter parlare per gran parte degli atenei italiani, è stato veramente poderoso, perché molti di loro erano ancora, come dire, non avvezzi alla tecnologia digitale, si sono dedicati, devo dire che complessivamente il sistema ha retto piuttosto bene. In Bocconi noi da anni cerchiamo di favorire questo tipo di percorso e di conseguenza c'è stato, come dire, un atterraggio più morbido da parte dei nostri docenti. Ma mi permetto però di far notare una cosa: in realtà l'Accademia italiana è molto poco bilanciata sulla ricerca. È giusta la sua osservazione a livello internazionale, e devo dire che a livello internazionale questo è avvenuto e c'è stata sempre di più appunto un'attenzione alla didattica. In Italia, se mi permette, devo dire che la ricerca scientifica è ancora abbastanza indietro a livello degli atenei, quindi io vedrei, come dire, il lato positivo di questa pandemia soprattutto nel passaggio verso anche una didattica più di frontiera, che integra il digitale con la didattica in presenza, ma non sottovaluterei il fatto che i docenti devono fare ricerca, perché in questo paese la quantità e la qualità di ricerca che deve essere fatta non è ancora a livello degli atenei più importanti a livello internazionale. Ecco, un altro aspetto che è stato messo in luce da questi mesi di didattica a distanza è che in questo modo le università italiane potranno contare su uno scambio di docenti di alto livello che possano arrivare da tutto il mondo. I nostri migliori docenti possono insegnare agli studenti dell'Arizona, perché a distanza è tutto più facile, e viceversa. In questo senso lei pensa che la direzione che già si è cominciata a delineare in alcune università italiane, e la Bocconi in questo è stata un'avanguardia, ma lo è anche la LUIS ed altri, sarà la direzione del 2021? Ma guardi, il digitale vuol dire esattamente due cose: vuol dire da un lato chiaramente arricchire l'esperienza degli studenti con tutta una serie anche di opportunità legate proprio alle simulazioni, legate al modo in cui si riesce a produrre contenuto anche attraverso il digitale, in addizione ovviamente di quello che si fa tradizionalmente con la presenza. La seconda area è quello che dice lei, cioè il fatto che il digitale è aperto e quindi teoricamente io ho accesso alle conoscenze di tante altre università. Io credo che la collaborazione del singolo ateneo con altri atenei per favorire questo tipo di scambi e di anche di esposizione dei propri docenti sia fondamentale. Noi da Bocconi questa cosa la facevamo già con la presenza, noi abbiamo 280 università partner con cui scambiamo appunto studenti, e parzialmente ovviamente gli studenti vedono per un semestre i nostri docenti oppure i docenti delle altre università. Però io credo che il digitale sicuramente amplierà le opportunità in futuro, indipendentemente dai viaggi delle persone. Qualcuno teme che ampli anche i rischi per le buone, eccellenti università locali. Faccio un esempio: se una grande università britannica, Oxford, Cambridge, comincia ad aprire dei corsi di didattica a distanza con delle lauree che poi possono avere un corso legale, questo non potrebbe essere un rischio per le altre università che sono invece italiane, francesi, olandesi? Io credo che il rischio nella sottofondo ci sia. In generale il digitale, ce l'ho insegnato in altri settori, fa valere la massa critica. Quindi di conseguenza chiaramente il miglior offerente, se in digitale riesce ad offrire un corso che sia accessibile a tutti, naturalmente vince con la quota di mercato maggiore. Tuttavia sono convinto che il futuro dell'università non sia solamente digitale, ma sia proprio l'integrazione tra la presenza e il digitale. Col digitale si possono scaricare molte esperienze, ma non si può, come dire, sviluppare quell'esperienza che a livello fisico, a livello culturale, a livello anche, mi permetta di dire, sociale, lo studente sviluppa e matura all'interno del campus. Quindi le nostre università devono continuare da un lato a fare quello che in parte hanno fatto, ma devono incominciare anche a sapersi distinguere dal punto di vista dell'eccellenza in alcune aree, in modo tale che possano essere anche loro stesse dei nodi nel network globale che vengono attivate da altre università a livello internazionale. Ecco, ma proprio per quello che dice lei, perché per i ragazzi è fondamentale vivere la dimensione sociale, no? dell'università, il trasferirsi in un'altra città, il contatto con il docente. Come sarà secondo lei l'università del 2021? Che progetti state facendo in Bocconi per l'anno che viene? Guardi, siamo entrati in didattica digitale, siamo stati tra i primi ovviamente a fine febbraio con le altre università milanesi e lombarde, con una progettazione che ha seguito un pochettino anche gli stimoli che avevamo già maturato negli ultimi 3 anni con il nostro laboratorio di pedagogia, e quindi abbiamo articolato i corsi in 3 macro classi e stiamo fondamentalmente cercando di capire con la sperimentazione appunto che abbiamo messo in campo in questi mesi come sarà la didattica esattamente del futuro. Dal nostro punto di vista ci sarà un ricorso al digitale per dare, come dire, sempre più l'opportunità agli studenti di imparare delle cose che, come dire, non devono avere la presenza fisica, quindi la parte più teorica, mi permette di dire, dei corsi. Allo stesso tempo la parte applicativa diventerà ancora più intensa, perché il docente a questo punto potrà scaricare fuori dalla lezione l'apprendimento di base del corso, che una volta era costretto in poche ore del corso, e a questo punto dedicare le poche ore del corso ad avere un'interazione ancora più ricca e applicativa con i singoli studenti. Quindi questo sarà il futuro dal nostro punto di vista della didattica. E invece se dovessimo pensare a che cosa la società chiede all'università, perché vede, negli anni 80 e fino ai primi anni 2000 tutti volevano studiare economia, come ha fatto lei peraltro, perché però il modello era quello della finanza. Nella sua parte negativa il modello poteva essere anche il lupo di Wall Street, e fare i soldi era l'unico mantra. In questi mesi la pandemia ci ha costretto a rivalutare l'importanza della conoscenza scientifica e con una grande pressione ad avere tanti medici, tanti ricercatori, come diceva giustamente lei. Allora, che idea si è fatto di quel che vorrà la società dall'università? Ma l'università vorrà, la società vorrà dall'università sempre di più delle persone che sono professionalmente pronte ad affrontare la complessità del mondo. Quindi io credo che da un economista vorrà sempre appunto meno un economista molto tradizionale, che ha una visione puramente legata alle dimensioni tradizionali dell'economia, ma una visione moderna, una visione, come si dice oggi, di economia sostenibile, in cui appunto si presti attenzione alle implicazioni che l'orientamento della finanza più classica e dell'economia più tradizionale ha portato. E la stessa cosa vale per altri campi. Sicuramente una cosa che sta chiedendo sempre di più la società, e credo che la pandemia lo abbia messo in evidenza, è una maggiore interdisciplinarietà. Io credo che sempre di più sarà opportuno per le università riuscire a fornire dei percorsi che diano una visione comunque integrata dei saperi. Guardi, la sfida che è stata messa in campo recentemente e che giustappone l'economia alla sanità è un esempio secondo me veramente quintessenziale. Le due cose non possono andare separatamente, quindi un economista dovrà sempre di più nel percorso di specializzazione capire le problematiche della sanità, esattamente come un medico dovrà essere attento alle implicazioni economiche del suo lavoro. Questo è il futuro dal mio punto di vista di quello che deve fare l'università e quello che la società chiede rispetto ai problemi complessi che dovremo affrontare. Alcune facoltà introducono anche per le materie economiche, scientifiche, lo studio della storia e della filosofia. Voi ci avete pensato? Noi non solo ci abbiamo pensato, ma noi, oltre ad aver obbligato i nostri studenti al primo anno del nostro appunto corso di laurea, cioè indipendentemente dalle specializzazioni che uno prende, da giurisprudenza, economia, noi chiediamo innanzitutto di imparare la programmazione informatica e poi di fare un corso di filosofia applicata. Chiaramente i crediti dei corsi sono molto vincolanti, quindi non si può estendere più di tanto, però una cosa che chiediamo sistematicamente al Ministro, parlo delle università un pochettino più innovative, è di rendere più flessibili percorsi di studio, proprio perché il futuro va nella direzione che le diceva. Senta, le posso chiedere che cosa ha imparato da questi mesi lei proprio, Gianmario Verona, personalmente? Ma guardi, io credo che, come dire, da minuscolo scienziato che sono, ero convinto che la scienza avesse ormai, come dire, conquistato tutti i saperi, e invece ci siamo resi conto, io personalmente mi sono un po' reso conto, realizzato della fragilità dell'essere umano in qualche modo, che è anche una cosa, se vuole, romanticamente bella. Io credo che è veramente importante a questo punto cercare di, ancora una volta, mettere insieme le forze per riuscire a far sì che l'evoluzione che abbiamo garantito fino ad oggi della società possa andare avanti, rendendoci conto proprio del fatto che in realtà c'è ancora molto percorso da fare. Questa pandemia veramente è come se fosse stato un reset. Ci ha fatto capire che tante conquiste scientifiche e tecnologiche del Novecento in realtà possono essere azzerate in un singolo momento per un problema che scoppia in un punto del mondo e che si diffonde nell'arco di 2 mesi in tutto il mondo. Questa Qual è il messaggio che lei si sentirebbe di dare ai suoi studenti che credo scalpitino, no, dalla voglia di tornare, di ritrovarsi nella pausa caffè, appunto, anche a chiacchierare con i docenti, che era una cosa bellissima? Qual è il suo messaggio per il 2021? Ma loro hanno dimostrato molta resilienza, chiaramente, giustamente lei dice, a questo punto incominciano ad avere anche un po' di ansia di ritorno. Io credo che il 2021 per loro sarà un 2021 fondamentalmente positivo, perché io mi auguro ovviamente che da febbraio, quando riprenderemo i nostri corsi, riprenderemo ovviamente con un modello ancora una volta misto, e poi con i vaccini riusciremo progressivamente anche a tornare in presenza. Io chiederei loro veramente di far tesoro di questa esperienza, visto che non la dimenticheranno mai per il resto della vita. Sono stata la prima generazione che ha ricevuto un'interruzione, parlo delle generazioni contemporanee, del corso di studi per questa situazione, e credo che anche loro abbiano capito ancora di più quanto sia importante, come dire, studiare, lavorare e diventare degli esperti, perché ancora una volta il futuro è molto complesso. Grazie al rettore della Bocconi, che è stato con noi per il nostro caffè della domenica. Buon 2021 a lei e ai suoi studenti. Grazie infinite, ricambio. Persone, idee, lavoro, cultura, istruzione, gastronomia e caffè sono il motore dell'Italia. Per affrontare l'oggi e il domani in modo diverso, creando la nostra nuova normalità. Lavazza è vicina ai giovani delle università e agli operatori di spettacolo e cultura, ai baristi, ristoratori e albergatori che adattano il loro servizio al mondo che cambia. È nei co-working a creare relazioni, è di ispirazione ai talenti dell'alta gastronomia ed è al fianco dei coltivatori di caffè all'origine, dove la Fondazione Lavazza promuove i progetti di sostenibilità terra da cui nascono le miscele dedicate ai professionisti per offrire sempre nuove esperienze del caffè. Lavazza, il caffè ci unisce.